Capitolo 4. Una circostanza impensata accrebbe parecchio il sentimento di rispetto che provava già il conte d'Erfeuil, quasi senza saperlo, per il suo compagno di viaggio. La salute di Lord Nelville l'aveva costretto a fermarsi alcuni giorni in Ancona. Le montagne e il mare rendono la situazione di questa città bellissima e la folla dei greci che lavorano sul di fuori delle botteghe, seduti all'usanza orientale, e la diversità delle vesti degli abitanti del Levante che si incontrano per le strade le danno un aspetto originale e interessante. L'incivilimento tende ogni ora a rendere tutti gli uomini simili in apparenza e quasi in sostanza. Ma lo spirito e l'immaginazione si compiacciono nelle differenze che caratterizzano le nazioni. Gli uomini non si assomigliano tra loro che nell'affettazione o nel calcolo, ma tutto ciò che è naturale è vario. Egli è dunque un piccolo piacere, almeno per gli occhi, la diversità degli abiti. Pare che prometta una nuova maniera di sentire e di giudicare. Il culto greco, cattolico e giudaico esistono simultaneamente e pacificamente nella città di Ancona. Le cerimonie di queste religioni differiscono estremamente tra loro, ma si innalza verso il cielo uno stesso sentimento di questi riti diversi, uno stesso grido di dolore, uno stesso bisogno di appoggio. La Chiesa cattolica è sull'alto della montagna e domina il vasto mare. Lo strepito dei flutti si confonde sovente col canto dei preti. La fabbrica, nel suo interno, è sovraccaricata di ornati di cattivo gusto, ma chi si ferma sotto il portico del tempio si compiace di avvicinare il più puro dei sentimenti dell'anima, vale a dire la religione, con lo spettacolo superbo del mare, su cui non si può giammai imprimere traccia di uomo. La terra è messa sottosopra e lavorata dalle sue braccia, le montagne sono tagliate per costruirvi delle strade, i fiumi sono marginati in canali per il trasporto delle mercanzie, ma se i vascelli solcano un momento le onde marine, il flutto viene subito a cancellare quel leggero segno di schiavitù e ricompare il mare tale quale esso fu il primo giorno della creazione. Lord Nelville aveva fissato nel dì susseguente la sua partenza per Roma, allorquando nella notte udì nella città spaventevoli grida. Si affrettò a uscire dall'albergo per saperne il motivo e scorse un incendio che cominciava dal porto e si dilatava di casa in casa fino al più alto della città. Le fiamme si riflettevano in lontananza nel mare, il vento che aumentava la loro vivacità agitava pure la loro immagine nelle onde e i flutti sollevati riflettevano in mille guise le linee sanguinose di un tetro fuoco. Gli abitanti di Ancona, non avendo trombe d'acqua in buono stato, cercavano di portare a mano qualche soccorso. Si sentiva in mezzo alle grida il rumore delle catene dei galeotti impiegati a salvare la città che serviva loro di prigione. Le diverse nazioni levantine che il commercio richiama in Ancona esprimevano il loro spavento con lo stupore dei loro sguardi. I mercatanti, al vedere in fiamme i loro magazzini, perdevano ogni presenza di spirito. Il timore di perdere le loro sostanze turba il volgo quanto il timore della morte e non ispira quello slancio dell'anima e quell'entusiasmo che fa trovare delle risorse. Le grida dei marinai hanno in ogni circostanza qualche cosa di lugubre o di insistente che lo spavento rende ancora più tetro. I barcaiuoli sulle sponde del mare Adriatico sono rivestiti di un cappotto rosso e bruno singolarissimo e di mezzo al cappuccio che vi è attaccato appare il volto animato degli italiani che dipinge la paura sotto mille forme diverse. Gli abitanti, sdraiati per terra nelle strade, si coprivano coi loro mantelli la testa, come se non rimanesse loro da fare altra cosa che il non vedere il proprio disastro. Altri si gettavano in mezzo alle fiamme, benché privi di ogni speranza di poterle scansare. Si scorgeva quindi alternativamente qua e là il cieco furore e la cieca rassegnazione, ma in nessun luogo quel sangue freddo che raddoppia in qualunque avventura gli aiuti e le forze. Osvaldo si sovvenne che vi erano in porto due bastimenti inglesi, quali dovevano avere immancabilmente a bordo certe trombe fatte con la maggiore perfezione. Corse subito dal capitano e montò con lui sopra un battello per andare a cercare tali trombe. Gli abitanti che lo videro entrare nella scialuppa gridarono subito rivolto a lui: «Ah, voi fate bene, voi forestieri, ad abbandonare la nostra disgraziata città!» «Noi torniamo subito», disse Osvaldo. Essi però non lo credettero. Lui ritornò nondimeno e fissò una delle sue trombe in faccia alla prima casa che ardeva sul porto e l'altra di rimpetto a quella che si abbruciava in mezzo della strada. Il conte di Erfeuil esponeva la sua vita senza pensarci, con coraggio e con brio. I marinai inglesi e i servitori di Lord Nelvil vennero tutti in suo soccorso. Poiché gli abitanti di Ancona rimanevano immobili, comprendendo appena ciò che volessero fare quei forestieri e nulla affatto credendo ai loro felici successi. Suonavano intanto le campane da tutte le bande, i preti facevano varie processioni, le donne si prostravano piangendo sulle cantonate delle strade dinanzi all'immagine di qualche santo, ma nessuno pensava ai soccorsi naturali che Dio ha dato all'uomo per difendersi. Quando però gli abitanti si accorsero dei fortunati effetti dell'attività di Osvaldo, quando videro che si estinguevano le fiamme e ne restavano illese le loro case, essi passarono dallo sbalordimento all'entusiasmo. Si raccoglievano intorno a Lord Nelvil e gli baciavano le mani con trasporto così vivo che lui era obbligato a ricorrere alla collera per allontanare da sé tutto ciò che poteva ritardare la rapida successione degli ordini e dei movimenti necessari per salvare la città. Erano tutti sotto il suo comando, poiché così, nelle più piccole come nelle più grandi circostanze, subito quando c'è un pericolo, il coraggio prende il posto che gli è dovuto e subito gli uomini che hanno paura cessano di essere invidiosi. Osvaldo, in mezzo al rumore generale, distinse frattanto urli più orribili di tutti gli altri, che si facevano sentire dall'altro capo della città. Domandò da dove venissero quelle grida, gli fu risposto che uscivano dal ghetto degli ebrei. Un ufficiale della polizia era solito chiudere la sera quel quartiere e l'incendio, facendo dei progressi verso quella parte, gli ebrei non potevano mettersi in salvo. Osvaldo a tale idea fremette e richiese all'istante che fosse aperto il ghetto, ma alcune donne della plebe che lo sentirono si gettarono ai suoi piedi per scongiurarlo di starsene fermo. «Oh, voi capite bene», dicevano, «nostro buon angelo, che sicuramente a cagione degli ebrei che sono qui noi abbiamo sofferto questo incendio, sono loro che ci tirano le disgrazie e se voi li mettete in libertà tutta l'acqua del mare non basterà per estinguere le fiamme». Esse, con altrettanta eloquenza e dolcezza, supplicavano Osvaldo di lasciarli bruciare, come se avessero domandato un atto di clemenza. Non erano esse cattive donne, ma superstiziose nell'immaginazione vivamente colpita da grande sventura. Osvaldo frenava appena la sua indignazione nell'ascoltare siffatte strane preghiere. Egli inviò 4 marinai inglesi con asce per spezzare le porte che racchiudevano quegli infelici. Coloro si sparsero immantinente per la città, correndo in mezzo alle fiamme a salvare le loro mercanzie con quell'avidità di ricchezze che ha qualche cosa di ben tetro quando ci fa affrontare la morte. Si direbbe che l'uomo nello stato attuale della società non sa quasi che cosa fare del semplice dono della vita. Rimaneva solamente una casa sull'eminenza della città che le fiamme attorniavano in guisa che era impossibile lo spegnerle e più ancora impossibile andarci dentro. Gli anconetani avevano mostrato così poco interesse per quella che i marinai inglesi, credendola disabitata, avevano già ricondotte verso il porto le loro trombe. Osvaldo stesso, stordito dalle strida di coloro che lo circondavano e imploravano il suo soccorso, non ci aveva fatto alcuna attenzione. L'incendio si era propagato più tardi da quella parte, ma aveva fatto grandi progressi. Lord Nelvil domandò infine così ardentemente a chi appartenesse quell'abitazione che finalmente uno gli rispose essere quella, l'ospedale dei pazzi. A tale notizia si mise sotto sopra tutta la sua anima. Si volse in giro e non vide più intorno qualcuno dei suoi marinai. Non c'era neppure il conte d'Erfeuil. Si sarebbe poi Lord Nelvil diretto invano agli abitanti di Ancona, essi erano quasi tutti occupati a salvare o far porre in salvo le loro mercanzie e pareva loro assurdo l'avventurarsi per uomini dei quali non ve n'era alcuno che non fosse demente senza rimedio. «È una benedizione del cielo», essi dicevano, «per essi e per i loro parenti se muoiono in tale guisa senza che alcuno vi abbia colpa». Mentre che si facevano questi discorsi intorno a Osvaldo, lui se ne andava frettolosamente verso l'ospedale e la folla che lo biasimava gli correva dietro con sentimento di entusiasmo involontario e confuso. Osvaldo, giunto in vicinanza della casa, vide alla sola finestra che non era investita dalle fiamme degli insensati che guardavano i progressi dell'incendio, sorridendo con quel riso compassionevole che suppone o l'ignoranza di tutti i mali della vita, o con tanto colore nel fondo dell'anima che nessuna forma della morte non può più spaventare. Un tremito inesprimibile si impossessò di Osvaldo a quello spettacolo e gli aveva sentito, nel momento il più orribile della sua disperazione, che la sua ragione era sul punto di smarrirsi. E da quell'epoca in poi l'aspetto della follia gli ispirava sempre la pietà più dolorosa. Afferrò una scala che si trovava là presso, l'appoggiò alla muraglia, salì frammezzo alle fiamme ed entrò per la finestra in una camera dove gli sventurati che stavano nell'ospedale si erano tutti riuniti. La loro pazzia era tranquilla a sufficienza perché fossero tutti in libertà nell'interno della casa, a eccezione di uno solo che era incatenato in quella stanza medesima dove le fiamme si facevano largo attraverso la porta, ma non avevano ancora divorato il palco. Osvaldo, comparendo in mezzo a quelle miserabili creature, tutte avvilite dalla malattia e dai patimenti, produsse in loro un così grande effetto di sorpresa ed incantesimo che di primo lancio si fece da loro obbedire senza resistenza. Ordinò che scendessero prima di lui, uno dietro l'altro, per la scala che il fuoco poteva distruggere in un istante. Il primo di quegli infelici obbedì senza proferire parola. L'accento e la fisionomia di Lord Nelvil l'avevano interamente soggiogato. Un terzo volle resistere, senza rendersi conto del rischio che gli faceva correre ogni momento l'indugio e senza pensare al pericolo a cui esponeva Osvaldo, trattenendolo là più lungo del tempo. Il popolo, che scorgeva tutto l'orrore di quella situazione, gridava a Lord Nelvil di ritornarsene giù e di lasciare che quei mentecatti provvedessero a sé meglio che potevano, ma il liberatore a nessuno prestò orecchio, prima che non avesse terminato la sua generosa impresa. Di 6 disgraziati che erano nell'ospedale, 5 si trovavano già in salvo, né vi rimaneva se non il sesto che era incatenato. Osvaldo ruppe i suoi ferri e volle fargli prendere per fuggire lo stesso espediente dei suoi compagni, ma era quello un povero giovinetto privo completamente di ragione e trovandosi in libertà dopo 2 anni di catena, si slanciava nella camera con disordinata gioia. Questa divenne furore allorché Osvaldo tentò di farlo uscire dalla finestra. Lord Nelvil, vedendo allora che le fiamme si inoltravano sempre di più nella casa e che era impossibile determinare quell'insensato a salvarsi da se stesso, se lo prese vigorosamente tra le braccia, ad onta di tutti gli sforzi di colui che lottava contro il suo benefattore. In tale guisa lo trascinò con sé, senza sapere nemmeno dove metteva i piedi, talmente il fumo offuscava la sua vista. Saltò a caso gli ultimi scalini e consegnò l'infelice, che continuava a insultarlo, ad alcune persone, facendosi promettere che si sarebbero prese cura di lui. Osvaldo, animato per il rischio che aveva corso, coi capelli scarmigliati, con lo sguardo altero e insieme dolce, riempì di ammirazione e quasi di fanatismo la folla che lo considerava. Le donne soprattutto si esprimevano con quella immaginazione che è un dono quasi universale in Italia e che appresta sovente una non so qual nobiltà ai discorsi della gente del popolo. Esse si gettavano in ginocchioni davanti a lui e gridavano: «Voi siete sicuramente San Michele, l'avvocato della nostra città. Dispiegate pure le vostre ali, ma non ci abbandonate. Alzatevi in alto e posatevi sul campanile della cittadella perché di lassù tutta la città vi veda e vi si raccomandi. Il mio figliuolo è malato», diceva una, «guaritelo». «Ditemi», diceva un'altra, «dove si trova mio marito, che è assente da molti anni?» Osvaldo cercava la maniera di scappare. Arrivò il conte d'Erfeuil e gli disse, stringendogli la mano: «Caro Nelvil, è necessario in ogni modo dividere qualche cosa coi suoi amici. Non è in regola l'addossarsi solo, come fate voi, tutti i pericoli». «Liberatemi da questo», gli rispose Osvaldo. Un istante di oscurità favorì la loro fuga. E tutti e due in gran fretta andarono a prendere dei cavalli alla posta. Lord Nelville provò sulle prime qualche dolcezza, gustando la buona azione che aveva fatto, ma con chi poteva egli gioirne, quando non esisteva più il suo migliore amico? Guai agli orfani, gli avvenimenti fortunati egualmente che le pene fanno lor sentire la solitudine del cuore. Come mai, infatti, può rimpiazzarsi quell'affezione nata con noi, quella corrispondenza, quella simpatia di sangue, quell'amicizia preparata dal cielo tra un figlio e suo padre? Si può, nonostante amare, ma l'affidare tutta intera la sua anima è una felicità che non si troverà mai più. Capitolo quinto. Osvaldo viaggiò per la Marca di Ancona e per lo stato ecclesiastico fino a Roma, senza osservare nulla e senza interessarsi di nulla. L'inclinazione malinconica della sua anima ne era la causa e quindi certa indolenza naturale dalla quale non era tolto via che dalle forti passioni. Non si era ancora sviluppato appunto il suo gusto per le arti, egli aveva vissuto solamente in Francia, dove la società è tutto, e a Londra, dove gli interessi politici assorbono quasi tutti gli altri. La sua immaginazione, riconcentrata nelle sue pene, non si compiaceva ancora delle meraviglie della natura e dei capi d'opera delle arti. Il conte d'Erfeuil visitava qualunque città con la guida dei viaggiatori in mano. Egli aveva simultaneamente il doppio piacere di perdere il tempo in vedere tutto e di asserire che nulla aveva veduto che potesse essere oggetto di ammirazione quando si conosceva la Francia. La noia del conte d'Erfeuil scoraggiava Osvaldo. Egli aveva d'altronde delle prevenzioni contro gli italiani e contro l'Italia. Non scopriva ancora il mistero di questa nazione, né di questo paese, mistero che bisogna comprendere con l'immaginazione, piuttosto che con quello spirito analitico che viene sviluppato particolarmente nell'educazione inglese. Gli italiani sono assai più notevoli per quello che sono stati, per quello che sono attualmente. I deserti che attorniano la città di Roma, quella terra stanca di gloria che sembra sdegnare qualunque produzione, non sono che una regione incolta e negletta per chi la considera solamente sotto i rapporti dell'utilità. Osvaldo, assuefatto fino dalla sua infanzia all'amore dell'ordine e della pubblica prosperità, ricevette sul bel principio sfavorevoli impressioni. Nell'attraversare le abbandonate pianure che annunciano la vicinanza della città, una volta regina del mondo, egli biasimò l'indolenza degli abitanti e dei loro capi. Lord Nelville giudicava dell'Italia da piccolo illuminato, da politico illuminato, il conte d'Erfeuil da uomo di mondo. In tale guisa, l'uno per ragione e l'altro per leggerezza, non provavano l'effetto che la campagna di Roma produce sull'immaginazione quando siamo penetrati dalle rimembranze e dai rincrescimenti delle bellezze naturali e dalle sventure illustri che spargono su questo paese indefinibile incanto. Il conte d'Erfeuil faceva lepide lamentazioni sui circondari di Roma, che, diceva egli, nessuna villa, nessuna carrozza, nulla che annunci la vicinanza di una gran città, Dio buono, qual malinconia mai! Nell'approssimarsi a Roma gridarono i postiglioni con trasporto, vedete, vedete, quella è la cupola di San Pietro. I napoletani mostrano ugualmente il Vesuvio e il mare sveglia in simile guisa l'orgoglio degli abitanti delle coste. «Par di vedere la cupola degli Invalides», rispose il conte d'Erfeuil. Questo confronto, più patriottico che giusto, distrusse l'effetto che avrebbe potuto fare in Osvaldo l'aspetto di quella magnifica maraviglia della creazione degli uomini. E si entrarono in Roma, non in una bella giornata né in una bella notte, ma bensì in una serata oscura e con l'aria bigia che offusca e confonde tutti gli oggetti. Attraversarono il Tevere senza accorgersene, entrarono in Roma per la Porta del Popolo che conduce subito al Corso, nella via più grande della città moderna, ma nella parte che è meno originale perché somiglia di più alle altre città d'Europa. La gente passeggiava in folla per le strade, i burattini e i ciarlatani formavano gruppi sulla piazza su cui si innalza la colonna Antonina. Osvaldo non si interessò se non degli oggetti che gli erano più vicini. Il nome di Roma non rimbombava ancora nella sua anima, egli non sentiva altro che di essere affatto isolato, il che vi serra il cuore quando entrate in una città straniera e quando vedete una moltitudine di persone alle quali è ignota la vostra esistenza e che non hanno alcun interesse comune con voi. Tali riflessioni, così tristi per tutti gli uomini, lo sono anche di più per gli inglesi, che sono assuefatti a vivere tra loro e che si conformano difficilmente ai costumi degli altri popoli. Nel vasto circuito di Roma tutto è forestiero. I romani stessi sembra che abitino là non come possessori, ma come pellegrini che si riposano vicino a delle rovine. Osvaldo, oppresso da sentimenti penosi, andò a rinchiudersi in casa e non uscì per vedere la città. Egli era ben lungi dal pensare che quel paese in cui entrava tanto scoraggiato e triste sarebbe ben presto per lui diventata la sorgente di tante idee e di tanti godimenti. Libro secondo. Corinna al Campidoglio. Capitolo primo. Osvaldo si risvegliò in Roma. Un sole luminoso, un sole d'Italia, colpì i suoi primi sguardi e la sua anima fu penetrata da un sentimento di amore, di riconoscenza per il cielo che sembrava manifestarsi con raggi così belli. Egli sentì risuonare le campane delle numerose chiese della città, dei colpi di cannone e di distanza in distanza annunciavano qualche gran solennità. Ne domandò la causa. Gli si rispose che si doveva incoronare quella mattina stessa in Campidoglio la donna più celebre d'Italia, poeta, autrice, improvvisatrice e una delle più belle persone di Roma. Fece alcune interrogazioni su questa cerimonia, consacrata dai nomi del Petrarca e del Tasso, e tutte le risposte che n'ebbe citarono vivamente la sua curiosità. Nulla vi era certamente di più opposto alle abitudini e alle opinioni di un inglese quanto cotal solenne pubblicità accordata al destino di una donna. Ma l'entusiasmo che ispirano agli italiani tutti i talenti dell'immaginazione si rende padrone almeno momentaneamente degli stranieri e si obliano sino ai pregiudizi del suo paese in mezzo a una nazione così vivace nell'esprimere i sentimenti che prova. La plebe a Roma conosce le arti, ragiona con gusto sulle statue, i quadri, i monumenti, le anticaglie, il merito letterario. Giunto a un certo grado, formano anche per quella classe di persone un interesse nazionale. Osvaldo uscì di casa per andarsene sulla pubblica piazza. Vi sentì parlare di Corinna, del suo genio. Si erano ornate le strade per le quali ella doveva passare. Il popolo, che non si aduna per ordinario se non sui passi della fortuna e della potenza, era là quasi tumultuante per vedere una persona che si distingueva per il solo ingegno. Nello stato attuale degli italiani, la gloria delle belle arti è particolarmente a loro dovuta ed essi sentono in questo genere il genio con una vivacità che dovrebbe far nascere molti grandi uomini se bastassero gli applausi per produrli e se non abbisognasse una vita energica per alimentare il pensiero. Osvaldo passeggiava per le strade di Roma, aspettando l'arrivo di Corinna. Ogni momento si udiva nominarla e si raccontava qualche nuovo aspetto di lei che annunciava la riunione di tutti i talenti che catturano l'ammirazione. Diceva all'uno che la sua voce era la più toccante d'Italia, diceva all'altro che la danzava come una ninfa e che se disegnava la grazia era uguale alla invenzione. Tutti soggiungevano che non si erano scritti giammai né cantati all'improvviso versi così belli e che nella conversazione abituale ella aveva alternativamente una grazia e un'eloquenza che incantavano tutti gli spiriti. Si disputava per sapere quale città dell'Italia le avesse dato la nascita. I romani sostenevano calorosamente che bisognava che fosse nata in Roma per parlare l'italiano con quella purezza. Il suo nome di famiglia era ignorato. La sua prima opera era venuta alla luce 5 anni prima e portava solamente in fronte il nome di Corinna. Nessuno sapeva dove fosse vissuta né ciò che ella fosse stata prima di quell'epoca. Era allora nell'età di 26 anni circa. Questo mistero e questa celebrità nello stesso tempo, questa donna di cui tutti parlavano e di cui non si conosceva neppure il vero nome, pareva a Lord Nelville una delle meraviglie del singolare paese che veniva a vedere. Egli Avrebbe giudicato con la maggior severità di tale donna in Inghilterra, ma non applicava all'Italia alcuna delle convenienze sociali e l'incoronazione di Corinna gli ispirava anticipatamente l'interesse che farebbe nascere un'avventura dell'Ariosto. Una musica bellissima e strepitosa precedette l'arrivo della marcia trionfale. Un avvenimento, qualunque sia, annunciato dalla musica, provoca sempre dell'emozione. Un numero grande di signori romani e di stranieri precedeva il cocchio che conduceva Corinna. È il corteggio dei suoi ammiratori, disse un romano. Sì, rispose un altro, e la riceve l'incenso di tutti, ma non accorda preferenza decisa a chi che sia. È ricca e libera di sé, si crede anche, ne ha bell'aria, che sia donna di nascita illustre, che non vuole essere conosciuta. Che ne sia, riprese un terzo, è una divinità attorniata di nuvole. Osvaldo guardò l'uomo che parlava in tal guisa e tutto indicava in lui la classe più oscura della società, ma nel mezzogiorno si servono sì naturalmente delle espressioni le più poetiche, che si direbbe che si attingono nell'aria, che sono ispirate dal sole. Finalmente i quattro cavalli bianchi che tiravano il cocchio di Corinna si fecero largo in mezzo alla folla. Corinna era assisa su quel cocchio costruito all'antica e delle giovinette vestite di bianco le camminavano accanto. Ovunque la passava si gettavano in abbondanza profumi nell'aria, ognuno si affacciava alle finestre per vederla e queste finestre erano ornate di fuori con vasi di fiori e con tappeti di scarlatto. Tutti gridavano: Viva Corinna! Viva il genio! Viva la bellezza! L'emozione era generale, ma Lord Nelville non ne partecipava ancora e sebbene avesse fissato che conveniva porre da banda per giudicare di tutto ciò la riservatezza dell'Inghilterra e il motteggiare dei francesi, non si dava tuttavia in preda a cotal festa, allorché finalmente egli scorse Corinna. Ella era vestita come la sibilla del Domenichino, aveva un fazzoletto delle Indie avvolto attorno alla testa. E i suoi capelli del più bel nero erano intersecati da quello. L'abito era bianco, un panneggiamento azzurro si ricongiungeva al di sotto del seno, il suo vestire era pittoresco all'estremo, senza allontanarsi peraltro di troppo dalle usanze in voga, perché non vi si potesse trovare dell'affettazione. Il suo atteggiamento sul cocchio era nobile e modesto, si vedeva bene che era contenta di essere ammirata, ma un sentimento di timidezza si mischiava con la sua gioia e pareva chieder grazia per il suo trionfo. L'espressione della sua fisionomia, dei suoi occhi, del suo sorriso interessava a chiunque per lei e il primo sguardo le rese Lord Nelville amico. Prima ancora che un'impressione più vivace lo soggiogasse. Le sue braccia erano di sorprendente bellezza, il suo personale grande ma un po' complesso, sul gusto delle statue greche, caratterizzava energicamente la giovinezza e la felicità. Le sue occhiate avevano qualche cosa di ispirato, si vedeva nelle sue maniere di salutare e di ringraziare per gli applausi che riceveva, una sorta di naturalezza che faceva risaltare il lustro della situazione straordinaria in cui si trovava. Ella dava simultaneamente l'idea di una sacerdotessa di Apollo che si incammina verso il Tempio del Sole e di una donna perfettamente semplice nei rapporti giornalieri della vita. In una parola, tutte le sue mosse avevano un incanto che risvegliava l'interesse, la curiosità, la maraviglia e l'affezione. L'ammirazione del popolo per lei andava sempre crescendo in proporzione che la si avvicinava di più al Campidoglio, a quel luogo così fecondo di rimembranze, quel bel cielo, quei romani tanto entusiasti e soprattutto Corinna, elettrizzavano l'immaginazione di Osvaldo. Egli aveva veduto sovente nel suo paese uomini di Stato portati in trionfo dal popolo, ma era allora per la prima volta testimonio degli onori accordati a una donna. Una donna illustrata dai soli doni del genio. Il suo cocchio trionfale non costava ad alcuno delle lacrime e nessun rammarico, come nessun timore, impediva di ammirare i più bei doni della natura, l'immaginazione, il sentimento, il pensiero. Osvaldo era talmente assorto nelle sue riflessioni e le occupavano delle idee così nuove che non fece alcuna osservazione sui luoghi antichi e celebri attraverso i quali passava il cocchio di Corinna. Si fermò questo carro a piede della scala che conduce al Campidoglio, e in quel punto tutti gli amici di Corinna si precipitarono per offrirle la mano. Ella scelse quella del principe Castelforte, il più stimato tra i grandi signori di Roma, per il suo spirito e per il suo carattere. Ciascuno approvò la scelta di Corinna. Ella salì la scala del Campidoglio, la cui imponente maestà sembrava accogliere con benevolenza i lievi passi di una donna. La musica si fece sentire con nuovo strepito nell'istante dell'arrivo di Corinna. Il cannone rimbombò e la sibilla trionfante entrò nel palazzo preparato per riceverla. Nel fondo della sala, nella quale fu ricevuta, era al suo posto il senatore che doveva coronarla, e lo erano pure i conservatori del Senato, da un lato tutti i cardinali e le donne le più distinte del paese, dall'altro i letterati dell'Accademia di Roma. Nell'opposta estremità la sala era occupata da porzione di quella folla immensa che aveva seguitato Corinna. La sedia destinata per lei era sopra uno scalino inferiore a quello del senatore. Corinna, prima di situarvisi, doveva, secondo l'uso, in presenza di quella augusta assemblea, porre un ginocchio in terra sul primo scalino. Ella lo fece con tanta nobiltà e modestia, con tale dolcezza e dignità che Lord Nelvil sentisse in quel momento gli occhi bagnati di lacrime. Egli stesso si meravigliò della sua tenerezza. Ma in mezzo a tutto quello splendore, a tutti quei successi, gli sembrava che Corinna avesse implorato con le sue occhiate la protezione di un amico, protezione di cui non può fare a meno mai una donna, per quanto elevata ella sia. E pensava tra sé che sarebbe cosa assai dolce l'essere l'appoggio di quella a cui la sua sola sensibilità renderebbe questo appoggio necessario. Appena Corinna si sedette, i poeti romani cominciarono a leggere i sonetti e le odi che avevano composto per lei. Tutti la esaltavano fino ai cieli, ma le davano lodi che non la caratterizzavano più di qualunque altra donna di un genio superiore. Consisteva tutto in una leggiadra riunione di immagini e di illusioni mitologiche che da Saffo fino ai nostri giorni si sarebbe potuto dirigere di secolo in secolo a tutte le donne che si sono distinte per i loro talenti letterari. Di già Lord Nelvil sentiva della pena per cotale modo di lodare Corinna. Gli pareva già che in guardarla egli avrebbe fatto nell'istante stesso un ritratto di lei più vero, più giusto, più circostanziato. Un ritratto, in breve, che potesse convenire solamente a Corinna.